non è acceso la voce, non il micro, non l'apparato. Sì, in effetti, come tutti quelli che abbiamo, se non gli dai un po' di scaldino prima, esce un po' così, un po' contratto. Beh, decisamente. Oh, yeah. Io non sono molto in forma, quindi sono contratto anch'io. Sento, Salvatore, dai, sono sempre busto di quello che mi stavi dicendo ieri. Aspetta, anche stanotte non sono stato molto bene. Oh, yeah, yeah. Stavo andando da ieri. Io stanotte sono uscito insieme a Fabrizio, siamo stati fino alle 2 fuori, ma poi alla fine siamo rientrati perché gli anni si iniziano a far sentire, quindi l'indomani mattina sei un cadavere se vai oltre le 2, capito? È qualche anno, è qualche anno che non vado oltre la mezzanotte fuori di casa. Beh, quello lì è come stavamo dicendo con Fabrizio, è dovuto alla prole, è la giusta guarigione perché fai il nottambulo, capito? A suo tempo già le ho fatte le cose, quindi che andavano fatte a quell'età. Ma sai che cos'è? La brutta sorpresa, poi se tenti di rifarlo adesso, è la brutta sorpresa che mentre prima facevi tutta la notte senza nessun problema, e l'indomani mattina ti svegliavi massimo alle 10, adesso ci voleva una settimana per recuperare. Cazzo, è vero. Ricordo che quando andavano forte le serate, le feste universitarie organizzate al Rotang tanti anni fa, che si facevano sempre di venerdì, però capitava che il sabato mattina, verso il racconto nel 90, fino al 93 la cosa è durata così, che il sabato mattina d'inverno noi lavoravamo, poi invece spostavamo l'orario e d'estate non lavoravamo di sabato e quindi accorciavamo nuovamente l'orario di lavoro e d'inverno lo allungavamo. Ma capitava che il venerdì notte, entrando quindi verso le 4:30, le 5, poi era una levataccia a svegliarsi alle 6:30 per andare a lavorare. Infatti, il problema è che io questa esperienza la sto facendo adesso con compagni dell'università che possono essere i miei figli, che a volte mi invitano a fare qualche scorribanda, l'indomani loro fanno tutta una tirata. Io sono un cadavere, una volta mi sono assentato per giorni per la lezione, capito? Talmente ero a posto. Cazzo, sì, è così. Perché io me lo ricordo lo stesso che passavo praticamente dei giorni dove dormivo una o due orette, però sempre bello pimpante. In realtà adesso è impossibile. Quindi mi trovo a fare io ai tempi vostri, alla fine ti spernacchiano tutti, gli anta si sentono come ma quasi in movimento, poi c'è il barra mobile direzione QTH via degli astronauti, perché mi voglio rosmettere l'antenna perché davvero sta uscendo male rispetto alla direzione in cui si trova. Sta uscendo davvero male con l'antenna. Purtroppo il ringo è così, basta che abbia un po' di dizionari e ti rimezzo il segnale. Quindi sono andato al QTH di Rockefeller per prendere il rosso, mettere un attimino e dargli una controllata. Con la scusa passo un attimino al quadrato per vedere se c'è l'Allegra Brigata. Ecco, un po' tardino però mi sembra, no? Sì, decisamente sì, non ti ripeto, mi viene il passaggio, esclusivamente per quello. L'ho capito. Stavo facendo ascolto stamattina, poi ho spento, adesso l'ho riacceso, ma mi stavo meravigliando come comunque riuscissi a sentire decisamente bene alcune radio sui 40 metri. Vabbè, è normale, oggi ci sono tutte le condizioni, ci sono maggiori condizioni per la trapolazione esterna dovuta al tunnel che viene creato alle condizioni climatiche. Un po' meno per le condizioni sono favorevoli per la comunicazione diretta, perché vengono disturbate parecchio. Stamattina non riuscivo a copiare qualcuno qua a Sassari proprio perché c'era questa russa che entrava di brutto, capito? E cazzo. Se dire qualcun altro. Negativo, aspetta che ho appena sbagliato, vediamo se riprendono in pieno, se ce la fanno. No, non ho sentito nessun altro, se non ho sentito Gianni che faceva chiamata, però non ce l'ho fatta a recuperarlo perché mi stavo facendo la barba. Ecco, non ho capito. Oh, adesso devo mettere mano a un computer proprio, mi mando un po' di video in bianco e poi mi metto a lavorare. Sì, come diceva chi era, Benitorgo, diceva, hai provato col limone? Sì, ma quando lo tolgo, lui lo diceva, si fa un po' di riso in bianco, lo prendo e poi faccio questo favore a questo amico, mi ha portato il computer stamattina, se non riesce più a prendere gli aggiornamenti, l'antivirus, chissà la figlia chiusa che ha fatto, allora gli do uno sguardo. Salvatore. E chi è? Era... coso? Non ce l'ho... da Claudio. Salutamelo. Sono entrato al volo dal finestrino. Salutami tutti quanti. Sentite cosa fa detto? Non ci vorrebbe male. Aspetta un attimino, dai. Fermati, maledetto drone, saluta la gente. Ma c'è solamente lui, meno male. Ti fermi un attimo che gli dico una cosa al volo che ho riscontrato. Sì, dimmi, parla che ti sta ascoltando. Digli che... se mi sta ascoltando. Ok, in una ricerca sul motore, su Google, ho visto che oramai il tuo nome è solamente registrato nelle pagine cache di ricerca, quindi oramai è solo nelle memorie dei motori di ricerca, perché non è più rintracciabile direttamente su Facebook, quindi in pratica la cosa dovrebbe essere andata in porto. Quanto al 20 di dicembre potrei provare a vedere se ti logga ancora, ma dovrebbe essere oramai sparito tutto. Sì, che non c'è problema, ti ringrazio. Figurati. È nulla. Allora vi lascio, buona chiacchierata. Sono ripartito, sono lato giostre del quadrato in direzione via degli astronauti. Sono di fronte all'ultimo piano, che è quella ristorante. Ma tu qualche volta sei salito sul quadrato, sì, con loro. Dunque ho preso due volte, mi sembra, il caffè. Capitato un due domeniche fa, mi sembra. Il meno conosciuto è il grotto. Beh, non ha neanche Claudio l'ho mai incrociato di persona. Il capo, la vecchia guardia lo conoscono tutti. Credo ormai l'abbiamo incontrato quasi tutti, dai. Ecco. Anche ti devo lasciare. Perché va a mangiarmi un po' di riso in bianco, mi fa male la faccia. Ci sentiamo più tardi nel caso, si accendi dopo che hai finito di fare le tue operazioni. salute. Ava, ava. Allora, che si dice? Nulla. Tutto bene. Tutto bene, tutto bene. E tu? Io, tutto bene, tutto bene. Non c'è problema. Dov'è sta radio? Sto provando a parlare sto cacchio di microfono. Radio 5, perfetta, chiara. Come sempre. Sì, come sempre, come sempre. Certo. Molto come al solito, sempre. Come sta la ricezione sta radio? Sono il microfono. Metto le cuffie. Io metto le cuffie. Cos'è tanto? Metto tutto a posto e adesso mi senti bene. Sarà il microfono tuo, non so, ma la ricezione. Ma no, non so qui. Cosa vuoi che ti dica? Aspetta un secondo. Ciao Leon, ciao Leon. Buonasera. Buon pomeriggio anche a te. E allora già. E allora sono qua. Aspetta una barra di cuore, mi danno una risposta, buf. Ah, Salvatore. Quando arriviamo qualcosa ci deve. Vieni che l'hai fatto già. La casa è tu. È lo stesso. Lo stanco io. Ah, hai lavorato. Come mi sabato? Hai fatto. Sabato lavoro, no? A domani mattina? Lavori domani mattina e poi domani sera no? Dovrebbe essere così, ma in previsione delle cose di Natale non si sa come va. Perché qualche consigliere lo sa fare? Visto che vedo anche domani sera. Ah, capa. Ma tu te la vedere. Ebbene, no, non mi sono cercato per il periodo di Natale, fare qualche giornata, no? Cosa Giuseppe? Beh, insomma, stavo cercando per il periodo di Natale per fare qualche consegna così, adesso di 3-4 giorni. Tu? Le consegne me le faccio solo io. Sono solo per fare consegne di tutta la giornata, il produttore. E anche fuori, anche Sassari, eccetera. Che cazzo? Ma ci stanno... di eliminare il personale se tu mi chiedi tu te l'avrei detto direttamente, non è che ho fatto fare la domanda anche a molta gente e cose, ma non c'è fatto il verso. Mica allora, per carità, c'è da lui, da lui quello che fanno che il contratto a termine, come definisce, li lasciano a casa, prima li lasciano a casa una settimana, poi li richiamava e facevano un altro contratto per altri 2 anni, per dire, capito? Ah, capo. Via, per carità. Un periodo molto buono siamo. Capo, le voce. Poi io, si vuole fare. Stiamo andando e peggiorando, non è a dire che c'è un miglioramento, che c'è un cavillo per migliorare. Anche se qualcuno dice che è una manovra politica questa che stanno facendo, che non ce n'è di crisi, che la manovra è solo politica. Non ce n'è, io, per carità. Cioè, quando stavo recuperando quei permessi, sono andato in giro per Sassari Vecchio a piedi, con una cosa desolante. I negozi che conoscevo qui, anche quelli famosi, e quelli che c'erano aperti, c'era il proprietario sull'uscio, sulla porta, a braccia con sé. E capa. Molti dove compravo io non esistono più. E noi abbiamo battuto un po' di scuro. È davvero giusto. Bisogna ammazzare tutti quelli che ci hanno creato questo questo modo di essere, il modo di vivere, perché loro potrebbero, se fosse una cosa per loro, potrebbero fare ciò che vogliono, ma visto considerato che si tratta della vita di tante altre persone, non è giusto che si comportino così. Ciao, ma è lui che nascondeva spesso la verità sui conti dell'Italia, che ha amministrato per 20 anni e l'ha affossata, si è mangiato l'Italia e si è stato mangiato anche gli italiani. No, ti ho sentito, Giulio, cosa c'ha la radio? Perché è così bassa? Che sono lontano. Adesso sento un effetto camera. Ma stavo dicendo? Stavo dicendo che lui ha registrato per 20 anni, no? Più o meno, 17 anni, là, la ricicca. E ha affossato l'Italia. Si è mangiato l'Italia e si stava mangiando anche gli italiani. Me l'hanno permesso, dai. È stata che la gente che l'ha votato che l'ha permesso di fare questo. Gli sbagli si possono anche fare, pensate che ci sia un rimedio che incappiamo in qualche persona che abbia un po' di buon senso. No, agli italiani che l'hanno votato bisognerebbe sputare in faccia, perché non hanno capito mai niente nella vita, non sanno che i capitalisti fanno sempre parte ai loro popolini, no a quelli dell'economia della nazione. Però spesso la loro stessi, non è una cosa di dare, giù. Hanno creato questo modo di essere, di cose, di vivere, e in poco tempo hanno distrutto mezza Italia. No, hanno distrutto tutta l'Italia, lui è quel malato mentale di Bussi. Oiui. E tutti gli altri appresso, c'ha vero magna magna a governo. Chi può tagliare la fetta più grossa? Per carità, è possibile? Continua con Giuseppe, vai Giuseppe. Ciao Giulio, buonasera, comunque. Sì, è qua, venite a proposito. Ciao Giuseppe, sono Giulio, anche a voi altri che due. Per carità, un casino. Adesso vediamo. La settimana prossima vediamo un po', mi faccio nuovamente un giro a vedere cosa ne esce fuori, nel senso a consegnare nuovamente il curriculum, se no è un casino. Se sì, la speranza è giusto a morire, d'accordo, quello che vuoi, però che posso garantire che domani sarà peggio di oggi, non meglio di oggi, peggio di oggi, e man mano che si va avanti sarà sempre peggio, perché è una sensazione dell'Italia tutto sul giorno veramente del fallimento, come si è già detto da più parti. Campa. No, sono andato giù a Cozzo, no, all'Eurospin, da Mura. Ho parlato con lui, con Umberto Mura, che conosco, mi ha detto che dice se fosse per me avrei anche assunto adesso, se fosse per me. Solo che non dipende da me, perché le assunzioni adesso le fanno direttamente da Torino, la sede centrale dell'Eurospin, che è a Torino, hai capito? Tutti i curriculum che mandano, che portano là all'Eurospin, all'edificio dell'Eurospin, vanno tutti trasferiti su a Torino e Torino prende la decisione, capito? Tu mi hai detto una balla, perché lui da poco ha assunto un fornaio, ha assunto, che è un disoccupato da un anno, perché prima faceva la benzina, adesso prima lavoravo con lui, e poi non ho più lavorato con lui e faceva la benzina. La benzina è stato licenziato e l'ha assunto lui di nuovo con il fornaio. Dice che è balista, che ognuno assume il personale che crede, no? Non c'è da niente la direzione, come dice lui, anche perché lui è autonomo, cosa mi sta dicendo? Proprietario regolare lui, mica decido loro per lui. Poi se ti vuole assumere, Giuseppe ti assume, lascia bene. Hai capito, e queste sono le parole che mi ha detto lui, che sono andato a parlare, tramite un'altra persona, siamo andati gli ho lasciato il curriculum già e mi ha detto qua, ci sono stato più di un'ora parlando con lui, dice ma tu cosa sei fatto qua? Io so fare quasi tutto, come magazziniere, mettere a posto la roba, fare pulizie nei sgabelli, c'ho la patente B, portare il camion, portare quello, portare quell'altro. Dice, comunque, che mi ha detto, dice che tutti i curriculum vanno trasferiti a Torino e dunque la decisione la prenderanno loro, ha capito? Non lui. Guarda che ci sono anche andato io una volta da lui e a me mi conosce e mi ha detto che mi avrebbe chiamato perché aveva aprito un negozio a Usico, non mi ha mai chiamato, mai. E in più una persona che lo conosce bene mi ha detto guarda sei stato fortunato che non ti abbia chiamato perché è migliore il posto dove sei tu che quello dove c'è lui, lui è un cane morto. Sì, sì, d'accordo con te già, perché io conosco lui, conosco l'altro fratello, anche Michele, quello Mura, sempre, gli ho fatto, giù all'orificio gli ho fatto, perché c'era anche il figlio, e gli ho fatto un po' di mesi, un paio di mesi, lì all'orificio giù a Tissi, dove c'era Mura, Michele, e per le ore che le facevo, diciamo che le facevo dalle 9:30 di sera sino alle 6 di mattina, ma sai quanto mi dava, metteva in mano? 650 euro, hai capito? Prova a ridare, avanti! Ora Giuseppe, allora sai che questa gente non capisce il bisogno del lavoratore, capito? E allora loro sono tranquilli, hanno un sacco di proprietà, hanno un sacco di mezzi, hanno e dunque non deve fare niente la gente. Il fatto che ti abbia detto che ti assumono da Torino direttamente ti ha raccontato una grossissima palla. Te ne poteva raccontare una più semplice e sarebbe stato anche più onesto, la qualche sua se ti avesse detto no guarda in questo momento non devo assumere nessuno, però parte si chiude lì e non puoi andare a dire e raccontare palle alla gente perché non va bene così e così è per disonirsi, guarda ti ha voluto dire quello proprio perché non trovava giustificazione o perché non ho avuto il coraggio di dire no, non sto assumendo nessuno, basta, tutto lì. Beh, giustamente giù, come stai dicendo tu, c'hai ragione, sarebbe uscito così e avrebbe fatto più bella figura, hai capito? Ma avrebbe detto guarda in questo momento non ti posso assumere perché non c'è lavoro, non c'è niente, c'è calo di personale, ecco, avrei accettato più bella questa cosa qua, tanto che non dimmi che è Torino qua, là e tutto quanto. Comunque, vabbè, cosa dire, andiamo, rompiamo le scatole all'assistente sociale per fare domande, contro domande, adesso da poco, avanti ieri ho fatto la domanda del comune, per il verde, e non lo so se va in porto oppure no, almeno so che lì al comune se ti prendono per 6 mesi, giusto? E fai 6 ore e 40 e ritiri un piccolo stipendio discreto, meglio di quello di dove sta facendo adesso, capito? Lo so Giuseppe, lo so, guarda io comunque ieri ho avuto modo di andare così in mercato di Sassari Vecchio, soprattutto Sassari Centro, là diciamo, ma è veramente uno squallore, guarda, vedere tutte le sedane abbassate, tutte le vetrine piene di bombette addirittura perché i magazzini abbandonati eccetera, non c'è più niente di niente, né artigiani né commercianti, non c'è più niente, salvo qualche eccezione così, ma diciamo i nostri importanti, quelli che hanno fatto il nome di Sassari per tantissimi anni, per generazioni e generazioni, ieri ho visto una desolazione assurda, guarda, proprio è una cosa impressionante vedere la città in questo stato. purtroppo da quando hanno chiuso anche il traffico lì all'emiciclo del Bandi, che non arrivano più le persone dai paesi, anche quello ha contribuito a far chiudere i centri di voti. Perché? Perché tutti quelli venivano, soprattutto a Sassari, per acquistare, venivano, e dunque facevano le strade appunto del centro e i negozi vagolavano, mentre invece adesso non vagolano più, e così la stessa cosa dicasi per Piazza Tola e per altre piazzette, eccetera, eccetera. Non è possibile, la colpa è generale, di chi ha amministrato, non c'è niente da fare. Loro se ne frenano perché fanno bene, però non pensano alla gente che ha bisogno del lavoro. Capito, Giuseppe? Comunque non ti scoraggiare, vai, speriamo che prima o poi tu riesca a trovare un lavoro fisso, stabile, possibilmente, perché ognuno di noi ha necessità di lavorare. Di conseguenza io te lo auguro di tutto il cuore, mi preghi. Che cappa, lo so giù, però il discorso è questo, che arrivato, fanno anche questo discorso, arrivato una certa età, che superi una certa età, loro dicono questo, io pago più di assicurazione che di contributi, capito? Perché già c'è una certa età, è giusto, se devi lavorare solo in nero, capito? E se lo trovi pure. Così, pigliandoti fisso, la persona che ti prende deve pagare un po' di tasse, capito? Ho detto, ma scusi un attimo, gli ho detto, ma io cosa devo fare? Se ho questa età, cosa devo prendere? A 45 anni cosa devo prendere? Pigliamo una pistola e mi devo sparare, oppure mi devo buttare dal ponte come stanno facendo molta gente, che è tutto quanto. No, a compiere delle azioni ferme, no, quello no, no, questa è la stupida, guarda, no, nella maniera più assoluta. Però adesso ci saranno ancora problemi, perché con questo nuovo governo ci saranno dei rincari contributivi, tutta una storia di aumenti, eccetera, eccetera. Di conseguenza ti puoi immaginare, incominciando la VIVA, incominciando la LIPES, e dunque anche quello adesso penserà ancora di più su tutte le attività, questo non si discute. Per cui per maggior ragione per non assumere nessuno, perché sarà sempre più pesante, più difficile, lo so, anche se capisco benissimo che il lavoro ci deve essere, ma non sta a noi, il lavoro deve creare, la politica deve creare il lavoro, fare in modo che l'economia nazionale riemerga e produca come si deve, invece no, loro hanno fatto sì che tutte le attività hanno dovuto chiudere, o tantissime attività, soprattutto al sud. E allora a questo punto qua la nazione sta andando in malora come sta andando, tutto lì. Sì, d'accordo con te, Giù, d'accordo con te. Allora, io dico questo, allora, se le persone a una certa età non riescono a trovare il lavoro, fai una legge, che le puoi aiutare a aprirsi un'attività tipo un circolo, un locale così, un circolo, oppure un tabacchino, oppure qualsiasi attività, dalle la possibilità che riesca a fare qualcosa, capito? Neanche quello, capito? E se io mi voglio aprire un locale, non lo posso fare perché ci rimetti, capito? Ci rimetti i soldi e tutto quanto, capito? Di attrezzatura e tutto quanto. Vabbè, sì, in effetti è così, perché uno non può avventurarsi a creare un'attività, perché ci vogliono, innanzitutto ci vogliono sacco di soldi. Poi un lavoratore non ce ne ha mai i soldi per poter, se vai in banca per chiedere un mutuo per poter aprire un'attività non te ne danno, per semplice motivo perché uno magari non possiede niente. Però non è solo quello, il problema i grossi capitalisti che non vogliono pagare le tasse come si deve, tipo ad esempio quelli che possiedono le barche, che non vogliono una patrimoniale, quelli che possiedono più di una casa non vogliono la patrimoniale. Per quale motivo? Invece mettono la casa, va all'inizio alla prima casa, ma quando mai? Ci sono tante persone che possono possessori di casa, no? Però la usano per viverci loro, ma magari sono pensionati a 400-500 euro al mese. Dimmi tu, queste persone come fanno a pagare l'ICI? Ma è una cosa assurda, ragazzi, non metti la casa a quei bastardi che ne hanno 200 di appartamenti, come c'è qualcuno a Sassari, Sasso tanto per fare un nome, capito? E non devono pagare la patrimoniale, la tassa sulla patrimoniale, ma non è possibile, ragazzi, che debba pagare sempre il poveretto, quello che mantiene in piedi la nazione, cioè il singolo lavoratore che si sacrifica una vita e si rompe la schiena per 50 anni per poter mantenere in piedi la nazione per questi bastardi, perché sono loro che vivono bene, non certamente i lavoratori manuali, eccetera. E la corrompe, adesso no, io adesso per questa storia della tredicesima, adesso secondo come va, te ne prendono più della metà dei soldi che deve ritirare, capito? Se una persona ritira di pensione 500 euro, con la tredicesima arriva a 1000 euro, gliene danno, cazzo. 700 euro e 300 se ne intassano loro, hai capito? È quello che rompe le scatole, hai capito? Già che ritira questa pensione di 500 euro che si deve pagare tutto quanto, luce, acqua è compresso. Adesso come fa uno a campare? Non ho capito se deve pagarsi anche l'affitto. Se una persona è in affitto, cazzo, non ho capito come fa a campare. Io questo non riesco a capire. Purtroppo è così, Giuseppe. Al povero sempre niente. Non c'è possibilità di miglioramento, niente da fare, deve morire e basta, così a discapito di questi bastardi che hanno un sacco di miliardi. Se uno ha qualche risparmio in banca, deve, io avrei anche paura di quello, perché secondo come va la nazione fallisce e il governo prende le opere troppo. Se c'è qualcuno, qualche lavoratore che sa fatto dei risparmi, ce li ha in banca, è pericoloso per il oggi, è pericoloso tenere il risparmio in banca. Il governo prende la roba troppa, non è che fa via guardare tu sei ricco o tu sei povero, prende e basta, capito? Mi prendi già. Buonasera, ma date un controllo per favore. Sì, aspetta che mi alzo per vedere lo smith, voglia. Ecco, anche mi alzo per vedere lo smith, metto gli occhiali, metto, allora, prova. Mi interessa il radio. La radio è buona, la radio è buona, non ci sono dubbi. È sempre a te, se sto provando un altro microfono, va bene? Sì, però non ho amplificata come solitamente sento la tua radio. Prego, per l'amplificazione, aspetta, chiudo la porta, un secondo. Devo fare qualche regolazione, non è che deve essere a 1000, ecco qua, la porto un pochino più su, 1, 2, 3, 4, ecco qua, così va meglio o troppo alta? No, va bene così, se ti interessa sentiamo il 9 più 15 adesso qua. Non ho capito Giulio, cosa hai detto? La radio ha aumentato, è buona, va benissimo così. Stavo dicendo, se ti interessa Santiago anche, 9 più 15. Ok, Santiago sarà sempre lo stesso, non è un problema. L'importante è che ci sentiamo. Dalle parti basse com'è la situazione? A me va il Tarivano 9:20, radio 5. L'altro chi era? Linchi negativi a Porto Torres, con la buonasera. Linchi negativi a Porto Torres, non so. Non vedo picchi qua, non lo so. Da te Giulio c'ho picchi negativi, lo vedi? Che c'è il radio con lo Smith grande? Sì. Io ho scritto alla luce, così. Confermo, picchi negativi. Picchi negativi. Allora, forse c'è la troppa potenza. Anche così, Sandro, picchi negativi. Positivo, positivo. Da 9 scende. Capito, da 9? Andiamo dai 9, con picchi negativi scende a 8 con la popolazione. Da picchi a 9 scende a 8. Vabbè. Lasciamo stare così, già va bene. Ok, a te il segnale comunque è aumentato di nuovo come la prima, eh. Adesso in questa lavorazione ne ha fatto l'ultima, il segnale è di nuovo 9+15. Poi lo conferma da Gianni. Gianni, come lo sente Claudio? Io lo sento benissimo. Tu, Gianni? Anche per me non c'è nessun problema la modulazione, probabilmente Sandro lo ascolta così, tante volte anche l'apparecchio, da mai arriva bene. Io sempre le mie 60 sto usando, io non ho toccato assolutamente niente, va bene, ci sentiamo dopo, buon proseguo di questo a tutti, ciao ciao ciao. Ciao Alessà, mi trovo con quello salutato, lo chiedi? Ehi Carpa, ciao Giulio, buonasera. Buonasera, ciao Gianni, rimango in stand by perché sto ultimando una cosettina, quindi adesso la questione di abitudine o così via, fai una cosa e con l'orecchio ascolti da un'altra parte. Ok, dai. Ciao Sandro, buon colo di ascolto e ci sentiamo. Avanti Giulio. Ok, avevo, forse ci siamo solo annullati con Gianni, non lo so, ti avevo appena rilanciato io. Allora Gianni, e l'ultima la passeggiata in composto oltre la soffiata, no? Oggi pioveva, dunque. Ma non ci sono passato. Sono passato verso mezzogiorno che stavano la mia sorella e sono passato lì ma non c'era nessuno. Ok, ma era immaginato, vabbè, quindi non è che va lì e si mette sotto la pioggia, ci sono le macchine, sempre questo, però quando è una giornata così brutta, lì già è piovosa, poi tra l'altro non è che fa piacere andare, diciamo così, al raduno settimanale per gli amici o tutto. Va bene, ok, avanti amici. Ah, comunque confermo, c'eravamo io, sono arrivato io e poi è arrivato Domenico Tardaneto, ci abbiamo preso il caffè e sono rimasti una mezz'oretta e poi ce ne siamo andati, e giusto siamo trattenuti lì una mezz'oretta e poi ce ne siamo andati e basta, e così. Beh certo, non lo faceva oggi, dai, non era, diciamo così, una giornata adatta. Quindi ci ha fregato il tempo, anziché fare brutto solo la notte, invece no, anche di giorno ha incominciato a piovere, perlomeno qui dove sono io ha piovuto, non è che ha diluviato, comunque c'era la pioggia, ecco, insomma non andava bene uscire. No, non faceva, infatti non sono andato nemmeno a vedere nemmeno le solite partite che io vado a vedere quasi tutte le domeniche, le partite delle squadre, diciamo così, di Tullio di Sassa, no? Tipo Lantieri, la Viglia, dei Punti, oppure lì alla Prato Comunale, insomma in questi posti qua di solito io vado la domenica mattina e passo un paio d'ore per vedere queste partite così da dilettanti, da appassionati del pallone, ciò che altro, ma niente di più. E tiriamo avanti, va bene, lo prendi già. Certo, non era una giornata evitante, non era evitante, anche sono andato a provare mia sorella, abbiamo fatto per 5 minuti perché è mancata la luce, non funzionavano né gli ascensori, niente, è tutto bloccato. Quindi sono stato 5 minuti, il tetto di verde, poi me la sono andato. Non ti facevano arrestare, perché dice che il personale è automobilizzato per questa storia dell'energia elettrica, che è saltato qualcosa nell'impianto. Sì, infatti è vero, è mancata la corrente elettrica, è vero, infatti io appunto in quel momento mi stavo facendo di nuovo la ricerca canale della parabola, non quella del digitale terrestre, ma della parabola, della tavernetta, perché lì era da tanto, cioè non usiamo quasi mai la parabola di giù della tavernetta, però a parte che intanto faccio un aggiornamento, e tanto che non era fatto apposta, è mancata la corrente. adesso si è spento tutto. Infatti io pensavo che fosse saltato lo short, lo salvavita a casa, invece no, dopo che c'era lo scaldabagno attaccato, la lavatrice in funzione, tutto il resto, frigo, eccetera, eccetera, lavastoviglie, eccetera. A questo punto ho pensato, ma forse il carico era troppo alto, invece no, effettivamente era mancata la corrente. E allora, ormai è ritornato dopo un po', non è che ha cambiato troppo. Avanti, amici. No, quello non ce n'è problema. Quello che non riesco a capire una cosa, giù, che non riesco a fare la ricerca della TV, per far vedere Rai 1, Rai 2, Rai 3, non riesco a memorizzare per fare la ricerca, poi non ho capito perché. Perché di tanto in tanto bisogna fare l'aggiornamento del coso, della ricerca canali, capito? Tu metti il logo, ricerca canali, automatica e te la fa da sola, perché loro spostano, dal momento che stanno facendo ancora questi impianti, perché l'Italia non è completa con digitale e TWF, allora staccano se li attaccano e così via, no? E allora di tanto in tanto ci scombussano loro i canali. Fai la ricerca di nuovo, se per caso non prendi la ricerca fatta in italiano, la prendi e la fai in tedesco, poi metti allora l'impostazione in lingua, no? E metti il Deutsche Land e la fai con quella lingua qui, lì, in Germania, capito? E vedrai che perché alle volte i decoder digitali italiani sono praticamente la gestione straniera, capito? Nel senso che magari è stato costruito fuori, però tu fai così, se non ti prendi con la ricerca italiana, metti la gestione della ricerca canali e della Germania e vedrai che disavrai i canali. L'ho fatta, non riesco a fare quella cosa lì, non ci riesco. C'è mio fratello oppure qualcuno che se ne intende di questa cosa qua di televisione, un tecnico, e me la faccio fare da lui, capito? Volevo cercare Antonello Pomponio, che lui l'ha fatta a casa sua, sa come farla, e volevo portarlo qua e farmi fare questa cosa qua, capito? Volevo andare a prendere Antonello e vedere un po' se riusciva a farmi fare questa ricerca. Ho capito, ma è semplice, perché tu fai il menu, schiacci il tastino del telecomando menu e ti viene qui impostazioni, ricerca canali, e poi scendi alla cosa ricerca automatica, si chiama manuale, la fa automatica, la fa da sé, no? Tu non fai altro che schiacciare ok su ricerca automatica e vedrai che i canali stanno disimpendo da solo, ho capito? Guarda che c'è scritto anche sul giornale, aveva ragione Pomponio, bisogna memorizzare su Germania. Che capa, lo so, adesso vediamo un po' di farla nuovamente questa cosa, vediamo un po', dai. Ok, dai, 5 minuti di campo e vado a fare questo programma di televisione, riprendo fra un po', dai, ciao, orecchi per me, ci sentiamo dopo, ciao. Ok, sì, in effetti è così, no, ma è già da tempo, però non è solamente da adesso che bisognava fare una ricerca sulla lingua Germania, da almeno un anno, guarda, da quando ho cominciato a fare lavori, tanto lo dicevano lo stessi che di fare, anzi io addirittura ho chiesto a quello che fa la manutenzione ai ripetitori, che abita a fianco alla mia botteria, abita quello che fa la manutenzione dei ripetitori, mi hanno detto, lui si è fatto buffare la ricerca sulla lingua tedesca, vedrai che ma poi mi parlano, no, dice, vedrai che i canali già sono in italiano, poi non è un problema, solo che magari tutte le scritte sono in tedesco, comunque è una cosa provvisoria, perché prima o poi la lingua italiana si riprende, tanto che qua io nei miei televisori l'ho fatta in italiano e le ho prese tutte, non è, anche se i canali non corrispondono alla realtà, tipo ad esempio, tanto per essere chiari, canale 1 risulta noi guardiamo sul numero 1, canale 2 sul numero 2 e così via discorrendo, no? infatti quando fai la ricerca in una certa maniera magari scombussoli tutti i numeri, poi cavalli ci sono, poi magari uno mette i preferiti, mette e si risposta da sé, se ne metti 1, 2, 3, 4, 5, a preferenza come vuole, capito? Sì, no, ma anch'io sto facendo questo, io ho memorizzato, lo metto adesso, mi metto sulla macchina, sto facendo i requisiti di salute, vai. No, sono entrato perché ho sentito la volta anche sulla Nuova Sardegna, l'arbitro, allora li sto memorizzati, come sempre li sto sistemando, li sto mettendo a posto, dai, piano piano. Beh, certo, Fabri, certo, sì, ma è così, capito, e dunque, vabbè, ci vuole un po' di pazienza, il problema sarà per i vecchietti, per quelle persone che magari non riescono a, allora sono costretti a farsi fare da qualche parente giovane, quindi che va a essere radiotecnico per la sintonizzazione così nuova, ecco, diciamo, è un problema comunque, dai, vabbè, dai, ne prendi già lui. Ma io non ho avuto problemi di questo genere, però quella di fronte mi stava dicendo che sono scomparsi tre canali, il primo, il secondo e il terzo. E ieri è andato mio cognato, ce l'avevo cognato a casa e non è riuscito manco lui, che lui se ne intende di queste cose, non è riuscito manco lui a sintonizzare. Dice io le cose giuste le ho messe, però non li prende. Boh. Lo so già, perché lui magari mi ricerca nel numero dove erano installati, tu vieni qua, se non vieni a casa, adesso ti faccio vedere che i televisori sono tutti quanti, ci sono tutti, 1, 2, 3, perché stamattina qualcuno si lamentava che ci mancava 1, 2, 3, canale 1, canale 2, canale 3 della RAI. Tutti gli altri, perché permettono appunto evidentemente in altre frequenze, però facendo una ricerca poi te li dai di sottolineare di nuovo e poi ti risposti magari con i preferiti e ti risposti su numeri che la tex fanno come, non capito già. Vabbè. Comunque quello di noi ce l'abbiamo lo stesso, ce l'abbiamo tutti lo stesso, però c'è qualcuno che non li vede, è strano perché l'antenna è centralizzata, il nostro palazzo è un bel casino. Io sono una questione di sintonizzazione, già, niente di particolare, dunque ognuno ci vuole un pochino di pazienza e naturalmente diciamo che è anche fastidioso, perché magari tu avevi i canali sintonizzati, quindi vai a sintonizzare di nuovo quando ti ritrovi, solo perché fanno i lavori, loro attaccano, staccano, spostano, capito, i moduli prima di loro fanno funzionare una frequenza, poi fanno funzionare un'altra, eccetera eccetera. Però io ad esempio qua, la RAI sono tutti uno dietro l'altro, tutti in fila, no, poi il Mediaset è lo stesso e tutti gli altri a catena, capito, non è un problema, anzi io ho visto anche che quando loro utilizzano un canale, vuol dire, tanto per fare un esempio, no? Canale RAI 5, che c'è RAI 5, canale 23, è sul canale 23, cioè sul telecomando tu schiacci 23 e ti esce canale 5, cioè RAI 5, non canale 5, RAI 5, un nuovo canale, insomma, ecco, capito? Oppure l'altro che so io, canale 51, che è un nuovo canale Mediaset, quello che dai i telegiornali continuamente, così, cioè corrispondono, quando tu hanno un numero di canale corrispondono, la verità, però ripeto, non tutti i decoderi sono uguali, chiaramente, allora bisogna cercare facendo una nuova sintonizzazione e poi uno si risposta a piacimento sul canale, sul numero del canale che preferisce, capito? Vabbè, ma tutto sta a vedere se sono incorporati o meno questi decoder, perché questo qua di quella di fronte è incorporato un televisore, di quei televisori mega galattici, quelli enormi. Sì, ecco, ad esempio, nel salone il televisore è quello piatto, quello modello, chiamiamolo così, no modello. Nella camera di mia figlia lo stesso, è così. Nella tavernetta invece ho il televisore, quello nuovo, è nuovo, perché è nuovo, l'ultimo, però è un altro tipo, quello con il cucino scoppio grande, eccetera, eccetera, quello da tubo. Nella camera da letto lo stesso, lì ci sono i televisori, uno è dagli 20 pollici, mi sembra 22, credo che è anche quello così, però quelli non hanno il coso integrato nel televisore, a differenza di quello che ho nella sala, nella mia salone e nella camera di mia figlia, qui ce l'hanno integrato, ce l'hanno. Allora lì quando sintonizzi sei tranquillo perché è quello e basta, mentre negli altri dove c'è il ricevitore del cordone separato, quindi pure sintonizzato, allora schiacci il tasto preferiti e tu il canale lo prendi, lo trasferisci sul numero che poi ti scriverai, capito? E quindi ti sistemi di nuovo. Lo so, è scocciante, sinceramente è scocciante, soprattutto per una persona anziana che non se ne intende e che non ha nemmeno magari la guida di fare certe manovre, certe cose, capito? È un problema, sì, vabbè, sopportiamo. Fabrizio, è sceso, sì. Ciao Fabrizio. È sceso dalla macchina, perché ha detto che stava scendendo. Sta appagato, allora io rimango in Corrix, 5 minuti e sto facendo la roba. Ok, già, d'accordo. Vabbè, dai, non è un problema. Faccio un pisolino, ci sentiamo. Anch'io adesso, tanto fra un momento ci saranno le partite anche, perciò. Va bene, a dopo eventualmente. Ciao già, ci sentiamo, saluto. A te. Attenzione, popolo. Guarda. Da un attimino sei meglio, guarda. Oh, ma dove vogliamo? Esci nel pozzo. Ma dove stavi? Ora, adesso dovrebbero essere circa 1 e 2, vai. Il rosso. Ora, guarda se è salito il segnale un attimino. Adesso è salito di un po', sei quasi 9. 9? No, deve essere così, eh. Cioè da quella della distanza che c'è fra me e te ti dovrei arrivare almeno un 9.10, 9.20. No, mi sono sbagliato, scusa. È 9 per lo pieno, eh. Va bene, dai. Ma scusa, cosa ti arrivava al Terla ieri? La verità, non l'ho controllato la verità. Però a me mi sembrava, devo dire la verità, dai. Però quando ho parlato insieme, sentiva lui un pochettino di più, tu ti sentivo tutto disturbato. Adesso come ti sta arrivando realmente? Ora, 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova. Ma tu stai dicendo più di 9 sei. Io come arrivo? Bene, buona. Migliorato qualcosa rispetto a prima? Sì. È che è molto più buona del radio. Quello che ti è piaciuto, dimmi mille. Sì, dimmi mille, ma stavo... ho abbassato un po' le stazionarie. Fa vedere se... avanti. Stiamo uscendo con 5 pieni. Ora. 1, 2, 3, prova. Sì, dai. Ci dovrebbe essere. Allora, 1 e 2, beh a 1 e 1 ci sei riuscito, a me non dico 1 e 1 perfetto, ma ce l'ho fatta. Aspetta un attimino che vedo negli altri canali come sono, provo a salire di canale e a scendere, poi vedere un attimino come sono messo un attimo. Non basta, davvero. se si può, penso che si possa scendere ancora. Ho sentito un break, avanti il break. Attivo, si può scendere, ma è una rottura di palle, perché poi alla fine stai sempre a ritoccarla, no, non va bene, dai. La lascio così, come va, va? Ora. Vabbè, ma uno e due è un passo avanti. No, che va bene, dai. Posso provare a fare una cosa, ma sono esperimenti. Aspetta. Lascia perdere, altro. Perché il palo più grosso non lo puoi mettere, ti dove? Devo allungare il palo, poi devo allungare il cavo, alla fine dico, va bene, per la stazione che è questa qua va più che bene, dai. Va più che bene, conosco così, e da, aspetta un attimino che sto cercando di svitare una cosa dell'apparato, oddio, lo faccio da qua, poi nel caso lo faccio da dentro, un attimino. Allora, hola, così sono 4 e rimango 4. Hola, 1, 2, 3, prova. Sì, va bene, Anto, va bene, com'è? Come cosa va bene? Allora, ma c'è molta musica, no? Infatti quando dopo 4, guarda la differenza così invece. Ora, guarda se un attimino aumentato di amplificazione o è uguale a quella di prima. Ora. Tra più alta è migliore. C'è una differenza tra questo passaggio e questo, guarda. Questo è un passaggio, 1, 2, 3, prova, e 1, 2, 3, prova. Questo diventa migliore, più alta. La prima? Là c'è questa manetta. Allora lascio così, dai. Ora, 1, 2, 3, prova. Cosa mi stavi chiedendo? Se con te là siete molto amici. Ho capito, sei molti amici chi? Se con me là siete molto amici. Abbastanza, diciamo di sì. Ola. E se adesso prendiamo questo qua, cosa succede? 1, 2, 3, ola. 1, 2, 3, prova. Ola. Se vedrai che mi prendo la scossa. Comunque sì, no, ci conosciamo molto bene assolutamente, no? Se no non sarei andato a fargli la stazione, poi adesso c'è anche la 25 e sicuramente dovrà iniziare a modulare. Ah, mi è stato già sempre, ho sentito anche ieri, che adesso sono, io stiamo andando a mangiare. La cappa, riesce a vedere toccare quest'altra molla, nulla. Quest'altra mollettina qua e non succede nulla, lasciamo vedere. Ora 1, 2, 3, prova microfono. Tu ce l'hai i canali sopra? No, va qui sul 45 che c'è Gigi Vulcano, io no, ma c'è solo Gigi. Con chi sta parlando? Dove si sta parlando con Gianni di Chiaramonti.